Radio 24 Reportage. Grande schermo Europa. Il cinema al tempo della crisi. Di Marta Cagnola. Cos'è il cinema europeo? Esiste un cinema europeo? Diana, Nicolò e Lucia amano il cinema e a Venezia sono stati i protagonisti dell'iniziativa 27 volte cinema, dialoghi sul cinema col pubblico. Grazie a Commissione Cultura del Parlamento Europeo, Giornate degli Autori, Europa Cinemas e Cine Europa, 27 giovani appassionati sono approdati alla mostra di Venezia. Un giovane per paese pronto a confrontarsi con gli altri sul cinema europeo. Beh, quando si parla di cinema europeo sembra sempre qualcosa quasi paradossalmente riduttivo, perché la bellezza dell'Europa e soprattutto dei diversi stili di cinema che si sono sviluppati nel nostro continente è proprio la bellezza della diversificazione che ogni nazione, ma anche quasi ogni regione poi ha sviluppato. Però posso dire, forse per essere pratico, direi che il cinema europeo adesso è l'idea della coproduzione tra diversi paesi per un fine comune, perché poi legandomi anche a un aspetto che è molto attuale e politico, ma bisogna fare politica a volte, è il fatto che comunque noi stiamo avendo una crisi, che è una crisi che è vera e si tocca ovunque. Quello che poi sto anche assistendo, che sono contento di questo, nella programmazione di Venezia, è il fatto di vedere comunque cinema che si impegna a dare anche un volto a chi sta soffrendo veramente, che sono le classi più basse. E se c'è un cinema europeo, è un cinema che appunto sta rappresentando questo. Il cinema europeo, infatti, è un cinema frammentato, diviso, e la crisi non aiuta. Una crisi particolarmente pesante in Italia. Dai dati del rapporto dell'Osservatorio Europeo dell'Audiovisivo presentati alla Mostra del Cinema di Venezia da Anica e ANEC, nel 2011 nelle sale italiane sono stati staccati 111 milioni di biglietti a fronte dei 216,6 milioni della Francia, i 171,6 della Gran Bretagna e i 129,6 della Germania. Sfavorevole il confronto relativo ai finanziamenti pubblici, le risorse investite nel settore nel 2011 dalle amministrazioni statali e regionali italiane sono state pari a 185,8 milioni di euro, mentre in Germania hanno toccato i 344, in Gran Bretagna i 365 e in Francia i 633 milioni. Basso anche l'investimento italiano complessivo nella produzione, che si ferma nel 2011 a 423 milioni di euro, mentre in Francia raggiunge i 1.389 milioni. La prima posizione però spetta la Gran Bretagna, che nel 2011 ha investito nel cinema 1.466 milioni di euro. Il dato negativo degli investimenti italiani è compensato dal fatto che, contrariamente a quanto accade negli altri paesi europei, l'apporto dei privati in Italia è più alto in proporzione rispetto a quello pubblico. L'Italia si rifà grazie al successo delle pellicole di casa, tanti i successi soprattutto delle commedie. Licenziato, trasferito al sud. Al sud, tipo Bologna. Sei stato trasferito vicino Napoli. A Napoli? Despedido? Trasladado. Al sur. Al sur, tipo Bologna? Te han mandado a un sitio cerca de Nápoles. ¿A Nápoles? Wunderschön, nicht? Mailand, geliebtes Mailand. Hier fängt für uns ein neues Leben an. Direttore, darf ich kurz stören? Ja. Es geht um Ihre Versetzung. Auf Mailand! Auf Mailand! Mailand. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich habe gesagt, ich sei behindert. Oh, mia bella Madonnina. Perché mi hanno detto che qui al meridione facciamo un gran caldo. E prima la posta la portavano i cammelli. Poi addirittura erano bad will. Che fa proprio, mi piglia per il culo. Grazie soprattutto a film come Benvenuti al Sud, in Italia la quota di mercato dei film nazionali nel 2011 ha raggiunto il 41,7%, superando il 37,8% della Francia. Nei gusti degli italiani, le commedie brillanti hanno preso il posto, soprattutto in alcuni periodi e per pellicole molto fortunate, dei grandi blockbuster americani, che continuano ad attrarre il pubblico in tutta Europa, come racconta Lucia, la rappresentante spagnola dei 27 giovani a Venezia. I'm really lucky because I come from... Io sono davvero fortunata perché arrivo da un paese vicino a San Sebastian, dove si svolge un famoso festival. Quindi, anche se San Sebastian è un centro molto piccolo, abbiamo la possibilità di vedere del cinema europeo con tutti i film che arrivano per il festival. Però so che nel resto della Spagna non è così. Il pubblico normale, quello che va al cinema solo per divertirsi, sceglie solo i film americani. Non so veramente cosa si dovrebbe fare per convincere il pubblico spagnolo a vedere questi film. For Spanish people to go to see these movies. Tornando ai dati, un altro positivo per l'Italia è quello relativo al numero di film prodotti, 146 nel 2011, che supera di gran lunga quello dei tedeschi, 92, e degli inglesi, 90, anche se inferiore a quello francese, 207. Buono il confronto sul prezzo medio del biglietto, che si attesta per l'Italia, così come per la Francia, a 6,3 euro contro i 6,8 della Gran Bretagna e i 7,4 della Germania. Ma tutto questo non basta. Dall'Unione arriva un segnale positivo con il programma Europa Creativa. La relatrice del rapporto Europa Creativa, l'europarlamentare Silvia Costa. Allora, Europa Creativa è il nuovo programma pluriennale che durerà dal 2014 al 2020, che riunisce nella proposta della Commissione programma media, programma cultura e creatività, in questo caso c'è anche la parola creatività, e una sorta di settore transsettoriale, si chiama strand transettoriale, che comprende alcune novità. Da un lato le azioni normali di supporto a seminari, educazione, media literacy, eccetera. E poi anche il supporto alle agenzie nazionali, desk nazionali, eccetera, ma soprattutto la possibilità di supportare nuovi modelli di business e nuovi modelli anche cross-sector e cross-national, che possono essere anche di contaminazione, insomma, innovativi. Accanto a questo, di questa percentuale dedicata al settore settoriale, c'è per la prima volta un nuovo strumento finanziario che prevede un fondo di garanzia europeo amministrato dal FEI, governato dal FEI, che assisterà i prestiti, loans, no? Che le istituzioni finanziarie nazionali potranno fare alle industrie culturali e creative. Quindi per la prima volta la parola proprio industrie culturali e creative, come era il libro verde, no? Che è stato approvato l'anno scorso, viene a far parte proprio di uno degli obiettivi di Europa Creativa. C'è un budget dedicato a Europa Creativa che è aumentato, questa è la notizia positiva, rispetto al 2007-2013 del 37%. Però, diciamolo con franchezza, è sempre un budget ridotto ed è comunque di 1 miliardo e 8 milioni di euro per i 7 anni. Quindi dentro questo 1 milione e 8 ci sono i 210 milioni previsti attualmente dalla proposta della Commissione per il nuovo strumento finanziario di prestito, di garanzia del prestito. Questo, in qualche modo, la speranza è che questi 210 milioni del loan, della garanzia del loan, possa produrre effetti moltiplicatori. Qui è opso. Desiderio e volontà ci sono, e c'è anche l'auspicio che i giovani si muovano di più per condividere le conoscenze in fatto di creatività. La presidente della Commissione Cultura del Parlamento Europeo, Doris Pack. L'educazione è importante in tutte le sue forme, l'educazione culturale, l'educazione civica. Abbiamo bisogno di approfittare di tutte le possibilità a nostra disposizione per entrare in contatto con tutte le culture europee. Credo che la mobilità di studenti e scolari sia uno degli strumenti più importanti che abbiamo per far avanzare l'Europa e per garantire un futuro migliore ai nostri bambini. Quello che stiamo facendo qui con questi 27 giovani appassionati di cinema è un esempio importante di quello che dovremmo continuare a fare. Nel quadro dei nostri programmi come l'Erasmus abbiamo anche molti progetti per gli studenti di arte, di cultura, di management culturale, e spero che la mobilità non venga presa in considerazione solo da studenti di economia e finanza. Dobbiamo anche menzionare le cosiddette summer universities, anche nelle materie culturali e letterarie. È giusto sottolineare quanto sia importante l'educazione anche nell'ambito della cultura. E l'entusiasmo dei ragazzi di 27 volte cinema lo prova ancora una volta. Hanno idee chiare su quello che potrebbe essere il cinema europeo di domani e un gran desiderio di fare e vedere di più, come spiega Diana, che vive e lavora in Romania. It's really difficult to put the grounds on a European, cinema and get that feeling. È davvero difficile mettere le basi di un cinema europeo, creare quel feeling. Dovremmo creare molti programmi a livello di Unione Europea. Ci vorrebbero più iniziative, come hanno fatto con noi le giornate degli autori, far incontrare gli studenti. È difficile stabilire cos'è oggi il cinema europeo. Anche fare un film ormai è complicatissimo. Bisogna spingere sulle coproduzioni. A volte vedi che un solo film è coprodotto da tanti paesi diversi, Francia, Danimarca, Gran Bretagna, Italia, e forse a quel punto riesci a mettere insieme le risorse per fare un grande film. Il pubblico europeo, però, è molto esigente. Da noi in Romania è esigentissimo. Vogliono buoni film, film che creino un dibattito. È davvero difficile, difficile. It's difficult. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.